in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi titoli abbastanza diversi, anzi senza abbastanza, perché come vedremo evidentemente nessuno ha trovato una notizia che veramente valesse molto più delle altre, quindi ognuno ha fatto le sue scelte. Il Sole 24 Ore ha un titolo molto economico che riguarda gli interessi sul nostro debito monster, però il debito monster dello Stato italiano, c'è stato, questa forse è comunque una buona notizia, è un calo record di questi interessi, un calo di 17 miliardi. L'analisi la trovate poi a pagina 3 e invece a pagina 5 un'analisi ed è subito sotto questo richiamo, è subito sotto il titolo principale, quella pratica che ha il Sole 24 Ore che si chiama Rating 24, di fare un fact checking, come dicono gli inglesi, cioè verificare con i fatti, con i numeri, quello che viene detto. E insomma, è particolarmente attuale questa pratica adesso che si parla tanto di fake news, cioè di notizie false. In ogni caso, questo metodo Rating 24 viene applicato oggi ai 6 decreti legge che sono stati fatti in 2 mesi di governo, quindi un governo sicuramente nato sull'emergenza, ma che sta anche legiferando usando lo strumento di emergenza che sono i decreti legge, quindi bypassando sostanzialmente il Parlamento e suscitando anche molte critiche per questo. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore, visto che oggi credo si parlerà moltissimo del vincitore di Sanremo e di Sanremo in generale, si può fare veramente un bilancio, visto che ieri è stata l'ultima serata. Il Sole 24 Ore con Andrea Biondi fa un bilancio economico. Sanremo d'oro per la Rai, infatti Sanremo ha prodotto 17 milioni di utili, non di ricavi, in 3 anni. La ricetta, con questo pezzo che poi trovate a pagina 18, alti ascolti, costi che già da qualche anno vanno giù, raccolta pubblicitaria che già da qualche anno va su. Prima pagina del Corriere della Sera. E è la prima volta che io ricordi, a mia memoria, sicuramente non infallibile, che il Corriere della Sera titola di fatto su un retroscena, perché il titolo è questo: Voto e governo, i piani di Renzi. Lo spunto è la direzione del PD convocata per domani, secondo il Corriere della Sera, che ripeto, dedica a questo retroscena l'apertura del giornale di oggi. È pronto a dimettersi domani, Renzi, subito al congresso PD, urne a giugno o settembre. E l'articolo di Marco Galluzzo, lo trovate poi a pagina 3, appunto argomenta questa tesi. Vedremo cosa succede domani. Anche altri quotidiani ipotizzano queste dimissioni di Renzi, ma in modo molto più possibilista e non certo dedicandogli il titolo di apertura. La fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata a una notizia che ho trovato solo sul Corriere, e viene dall'India. Sapete che in India le ultime elezioni hanno portato al governo, in realtà ormai da più di quasi 2 anni, i nazionalisti indù, che hanno la maggioranza. Ci sono state molte conseguenze di questo. L'ultima, in ordine di tempo, sarebbe che, il titolo con cui si sintetizza questa notizia, l'India non vuole più i vaccini di Bill Gates. La fondazione Bill e Melinda Gates potrebbe perdere in India la regia del programma di vaccinazione di massa che assiste ogni anno, pensate, 27 milioni di bambini, 30 milioni di donne in gravidanza. La svolta, nel segno di analoghe misure adottate con istituzioni straniere come la Ford Foundation e Greenpeace, segue l'arrivo al potere del 2014 dei nazionalisti indù. E trovate questa storia a pagina 15. La Repubblica ha un titolo ancora diverso, dedica il titolo a un'intervista molto lunga che poi trovate alle pagine 2 e 3, a Fabio Salzetta, che è uno dei salvati dalla tragedia dell'albergo travolto di Rigopiano, travolto in Abruzzo dalla valanga. A quasi un mese dalla tragedia, il primo ricordo di quella notte, il virgolettato di questa intervista: io scampato dall'inferno di Rigopiano, ora ho paura del buio. E Repubblica poi correda questa intervista con tutte le polemiche, che ancora più che polemiche sono indagini aperte, sulle irregolarità con le quali era stato costruito e poi non controllato, potremmo dire così, l'albergo di Rigopiano, che era, questo a detta di tutti, in una posizione molto pericolosa. La Repubblica è anche, perché è tra i quotidiani, credo, quello che chiude più tardi, che ha la possibilità di chiudere più tardi, e quindi, a differenza di altri quotidiani che non sono riusciti a farlo, ha in prima pagina la vittoria di Francesco Gabbani al Festival di Sanremo. Ma vi leggo la maca di Michele Serra, che, come sapete, da qualche settimana si è spostata in prima pagina. Ve la leggo perché è dedicata al, potremmo dire, famigerato titolo di libro di 2 giorni fa, Patata Bollente, riferito a Virginia Raggi, nel senso che Virginia Raggi, la sua giunta, il suo ruolo di sindaco di Roma sta diventando una patata bollente, cioè qualcosa che scotta per il Movimento 5 Stelle e non solo, visto che Roma è la capitale del nostro paese. E il titolo però era anche un evidente doppio senso, quindi si è scatenato un putiferio. E un po' mi sembra uno dei forse pochi commenti equilibrati che ho letto a questa vicenda, e per questo ve lo leggo. Contro il deprimente titolo di libro su Virginia Raggi sono state dette e scritte molte cose, tutte giuste. Una delle poche cose sbagliate l'ha detta Grillo. Questa è l'informazione italiana, come se avessimo facoltà di attribuire alle categorie e non alle persone la responsabilità di quello che dicono e fanno. I giornalisti non esistono, così come non esistono i politici. Ci sono giornalisti e politici inqualificabili, giornalisti e politici di ottimo livello, e in mezzo ci sono giornalisti e politici così così. La gamma è ampia e costringe a fare la fatica di distinguere. Giudicare se la qualità del nostro giudizio ci sta a cuore è piuttosto faticoso. Le volte che scrivendo mi fosse sfuggita la dicitura i politici o la classe politica, il capo di imputazione dovrebbe essere pigrizia intellettuale, peccato non veniale per chi usa le parole per vivere. Quanto alla guerra tra grillini e giornalisti, è una rappresentazione da teatrino dei pupi che entrambi le parti avrebbero interesse a smontare, e in fretta. In attesa che il sacro web carichi sulle sue spalle l'intero peso delle attività umane, tanto chi fa politica quanto chi fa informazione deve rassegnarsi, come dai secoli dei secoli, a faticare per farsi capire e per capire, senza offendere troppo e senza offendersi troppo. Con La Repubblica oggi in edicola anche l'Espresso. Il titolo principale è Derivati ed è un'inchiesta su quelli derivati, sapete, sono dei particolari strumenti finanziari pericolosi se usati con troppa spregiudicatezza, sempre più diffusi, molto diffusi prima del crack di Lehman Brothers del 2008 e come ha scritto, mi ricordo, in un articolo che mi aveva fatto molta impressione qualche mese fa, Moira Longo sul Sole 24 Ore, nonostante siano stati appunto i grandi imputati, tra i grandi imputati della crisi finanziaria, soprattutto innescata e culminata, potremmo dire, nel fallimento di Lehman Brothers nel 2008, nel settembre 2008 in America, e in realtà poi sono stati utilizzati ancora molto e oggi sarebbero ancora di più dell'epoca pre-2008. E da qui il titolo appunto dell'inchiesta di Luca Piana sull'Espresso, i derivati, e c'è un disegno, l'Italia con una famiglia, una famiglia, padre, madre, una bambina e un bambino, e tutto intorno girano degli squali. C'è però anche da segnalare sull'Espresso un inedito di Umberto Eco, un'intervista fatta da Livio Zanetti, 16 pagine che vengono definite addirittura da staccare e conservare. L'Unità, vi cito l'Unità subito perché, appunto, essendo il quotidiano del PD, ci si aspetterebbe anche qui magari qualcosa in più su quello che secondo il Corriere della Sera è una certezza, cioè che domani Renzi si dimette. In realtà il titolo principale è Missione Uguaglianza. Negli ultimi decenni un paraocchio ideologico ha impedito di vedere le vere ingiustizie sociali. Viene citato un rapporto della CGIL che denuncia come siano aumentati i poveri e i salari bassi e se, a pagina 2 e 3 gli approfondimenti, ecco la sfida per la sinistra. Di spalla, così, un riferimento quasi sottotono, Renzi tira dritto sul congresso anticipato, Guerini ricuce, Guerini sapete è il presidente del PD, la minoranza bersaniana così si rischia la scissione. Poi dal territorio il PD si impegna a far approvare lo Ius Soli. Non leggo la parola dimissioni, vedremo appunto domani che cosa succederà. Il Messaggero ha un titolo ancora diverso: Trump retata di immigrati. Queste sono le ultime notizie dagli Stati Uniti. Gigantesca operazione di polizia in molti stati dell'Unione, arrestati migliaia di irregolari. E poi c'è anche quest'altra notizia che gli Stati Uniti con la presidenza di Trump, si stanno opponendo alla nuova scelta dell'inviato ONU in Libia perché secondo appunto la posizione dell'amministrazione Trump è anti-israeliano. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Messaggero, che è il quotidiano di Roma per eccellenza, un approfondimento sulla vicenda di Berdini, l'assessore che ha concesso una intervista a Paolo Berdini, assessore all'urbanistica, che ha concesso un'intervista a un giornalista della stampa che l'avrebbe registrata senza dirglielo. In ogni caso, la registrazione dimostra esattamente quello che Berdini ha detto, che la stampa ha riportato e che Berdini poi ha smentito inutilmente, perché appunto c'è una registrazione e sapete la vicenda. In questa intervista si parla di molte cose, ma anche, e questo è quello che diciamo purtroppo ha fatto notizia, secondo Berdini, Virginia Raggi e Romeo, il suo consigliere che le ha anche intestato la famigerata polizza vita, erano amanti. Questo il Messaggero lo mette in prima pagina. Vi segnalo anche la prima pagina del giorno perché qui l'apertura è completamente diversa. Fine vita, fate una legge. È riferita a un sondaggio fatto dal Giorno. 2/3 degli italiani invocano il testamento biologico, stallo in Parlamento. E alle pagine 2 e 3 poi trovate le interviste. Un'intervista a Federico Gelli, un deputato del PD, che dice ci sarà l'ok presto in aula. E poi a Mina Welby, la vedova di Pier Giorgio Welby. Troppi rinvii. Darò io la sveglia. Sapete, il testamento biologico è quella pratica che esiste in molti paesi dove si autorizza a, semplifico, staccare le macchine, ma possono essere anche tante le altre le situazioni, staccare le macchine quando non ci sono più speranze di cura, quindi di fatto una autoautorizzazione all'eutanasia anche quando si è talmente malati da non poterlo più ribadire personalmente. Un ultimo titolo prima della pausa, dove sentiremo anche qualche aggiornamento sul meteo: La verità, Renzi è un pericolo pubblico. Titolo a tutta pagina. L'ex premier, secondo il retroscena della verità, minaccia Padoan, il ministro dell'economia. Non vuole che il ministro rimedia ai danni fatti dal suo governo. Se la spunta, il ricatto lo pagheremo noi. L'unica speranza è che qualcuno dentro il PD si ribelli. E torniamo, vediamo appunto alla vicenda del PD, cosa succederà domani durante la direzione convocata appunto da Renzi del PD. Ma ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che già così presto la domenica stanno mandando dei messaggi e all'ascoltatore che dice: ragazza violentata in treno non è notizia, Crivelli sveglia, certo che è una notizia. Per essere precisi, questa ragazza di 15 o 16 anni, a seconda dei giornali, è stata molestata e picchiata. Non riesco a dire per fortuna non violentata, perché comunque è ugualmente grave. In ogni caso, appunto, non è stata violentata. Il Giorno, e così rispondo anche all'ascoltatore che mi chiede su quale giornale ci sia l'approfondimento sul testamento biologico, è il Giorno Quotidiano Nazionale, dove è il titolo di apertura, ma la fotonotizia è appunto violenza sul treno, e c'è questa notizia di questa ragazza che tornava a casa su un treno ed è stata molestata e picchiata al punto che ha una costola rotta da due stranieri. Che adesso si cerca di rintracciare. Avvenire, la caccia di Trump, quindi stesso titolo del Messaggero, la notizia è quella che sono stati arrestate migliaia di immigrati irregolari e in teoria sarebbero, secondo quanto sostiene l'amministrazione Trump, addirittura 3 milioni gli irregolari da espellere subito. Ma la fotonotizia è dedicata alla carestia che incombe sull'Africa, è una notizia a cui l'Avvenire aveva già dato spazio nei giorni scorsi. In questo caso, appunto, si approfondisce il fatto che in Africa Africa ora sono a rischio 24 milioni di persone, soprattutto nei paesi dell'Africa orientale. Anche la stampa parla della grande retata di Trump, così la definisce, in carcere spacciatori, ma anche padri di famiglia. Un po' l'analisi approfondita che fa la stampa, le pagine 2 e 3 di chi sono appunto le persone arrestate, e si sono già annunciati i rimpatri che dovrebbero partire a breve. La fotonotizia però è dedicata in un certo senso anche all'Africa, perché in Africa sono la maggior parte dei soldati bambino, ma purtroppo non sono soltanto lì. In ogni caso, oggi è la giornata per la difesa dei bambini soldato e la stampa racconta in particolare la storia di una bambina soldato che era stata reclutata dalle tigri Tamil e che adesso poi è stata salvata, le è stata data una seconda possibilità nella vita, l'ex bambina che è andata in guerra. Il Fatto Quotidiano è un po' il titolo scelto anche dalla Verità, cioè sulla necessità, purtroppo ormai lo sappiamo, probabilmente di una piccola mini manovra per aggiustare i conti, e il Fatto Quotidiano descrive questa notizia così: Renzi ha lasciato una voragine da 40 miliardi e fa pure il furbo. E poi, a proposito di titoli, come li ha definiti Serra, deprimenti, ecco, anche per me sono deprimenti prima ancora che volgari o così di cattivo gusto. Sul Fatto Quotidiano oggi c'è una vignetta con un gigantesco cetriolo che viene definito il cetriolo volante dopo la patata bollente. Ciao gentiloni, sono i conti in rosso lasciato da Renzi, pronto? Bello, eh? Il manifesto. Invece, sfiduciati, ed è un riferimento a quei dati che vi dicevo sono riportati anche dall'Unità, che purtroppo fotografano un'Italia in cui cresce la povertà, aumentano le disuguaglianze, diminuiscono i salari. Nel rapporto della CGIL, il dramma dell'Italia che non ha più fiducia nel futuro. Il giornale ha come un palchettone, cioè diciamo il titolo che non è proprio il titolo principale, però spicca perché è subito sotto la testata, di quella appunto della vicenda della ragazza di 15 anni, pestata e palpata a 15 anni, caccia a questi due nordafricani. Poi c'è una foto dedicata a Emanuele di Savoia perché compie 80 anni e Eleonora Barbieri lo ha intervistato. Trovate l'amplissima intervista alle pagine 16 e 17. Ho attraversato la storia d'Italia, ora la racconto alle mie nipotine. Il titolo principale però è dedicato all'iniziativa di Papa Francesco che manda quello che il giornale definisce uno 007 a Međugorje, sapete la località bosniaca dove sono segnalate da molto tempo apparizioni della Madonna e secondo appunto il titolo del giornale, dubbi del Papa su Međugorje, questo 007 di Francesco mandato per indagare sulle apparizioni. Libero, a proposito di Libero, che riproduce la prima pagina di 2 giorni fa, patata bollente, Vittorio Feltri risponde ancora alle critiche con un editoriale che si intitola I depensanti. Ve ne leggo una piccola parte. Scaricare le colpe su Libero è un gioco da ragazzi cui partecipano entusiasticamente e gratuitamente anche i presidenti di Senato e Camera. Al mio stimato amico Francesco Merlo, che sulla Repubblica ci tira le orecchie e ci impartisce una lezione di stile, rammento pure il titolo cinofilo sul pontefice, casomai se lo fosse scordato. Forse lo ricorderete, il titolo del manifesto quando fu eletto Ratzinger, il pastore tedesco. Pregandolo, scrive Feltri, di prenderlo in esame per verificare se sia migliore o peggiore della patata, gradita peraltro ai vegani, quasi tutti di sinistra. Inoltre gli do un consiglio: invii ai professori che hanno denunciato l'italiano sgangherato degli studenti qualche articolo del suo direttore Calabresi, che temo consideri la sintassi un odioso pregiudizio borghese. Vabbè, stoccate in punta di penna tra Vittorio Feltri, Francesco Merlo e Mario Calabresi, direttore di Repubblica. Il titolo principale, però, è dedicato alla Raggi, con un'inchiesta, con dei dati raccolti appunto da Libero, che poi sintetizza con questo titolo: La Raggi fa i soldi con le vacche. Che cosa vuol dire? Che per far quadrare i conti disastrati di Roma, mette all'asta le mucche, mucche che appunto l'amministrazione possiede. Non è un doppio senso, sottolinea Libero, l'idea migliore che la signora ha avuto da che gestisce la capitale. Una lettera di Carlo Rossella a Libero intitolata Fate una class action per liberarvi della sindaca, una lettera ai Romani. E poi invece un lungo articolo di Renato Farina che poi trovate a pagina 4, La politica è malora ma pensa solo alla patata. E poi non ne leggerò pa una parte perché bisognerebbe contemporaneamente leggere anche le critiche a critiche a Bannon, per esempio, riassunte in un articolo di Federico Rampini. In ogni caso interessante perché appunto tempo di approfondire questa questione. Sapete che lo stratega di Trump si chiama Stephen Bannon, è un conservatore, possiamo definirlo così per brevità, e Antonio Socci ne ha analizzato alcuni interventi del passato, giungendo alla conclusione che quelli di Bannon sono gli antichi valori e che quindi c'è un attacco conformista nei confronti di Bannon, che a ben guardare in realtà appunto difende quello che secondo Facci sono gli antichi valori, soprattutto legati alla tradizione cristiana. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo, per vedere anche la parte positiva del nostro paese, che ricordo è la seconda economia manifatturiera d'Europa dopo la Germania, Giovanna Mancini ci racconta come il settore dell'arredo design, che è uno dei settori più importanti del Made in Italy, abbia messo a punto un piano per riconquistare gli Stati Uniti. L'export è salito nel 2015 e ci si augura che anche grazie a questo piano di Federlegno continui a salire. Dalle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo un'intervista a Mario Monti, che ogni tanto appunto reinterviene, specie quando rinascono polemiche sui conti pubblici, sulle manovre. E in questo caso però lo spunto sono le dichiarazioni di qualche giorno fa di Angela Merkel sul fatto che ci possa essere un'Europa a due velocità economiche naturalmente. Per Mario Monti la flessibilità non è una vittoria, Italia in Serie A, questa Serie A di un'ipotetica Europa con paesi di Serie A e paesi di Serie B, Italia in Serie A solo se credibile. Poi una bella storia da Reggio Calabria perché il giudice Di Bella, Roberto Di Bella, che ha 52 anni ed è presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, la sua storia è stata raccontata dal New York Times con questo titolo: Moving Children of Mob Families Across Italy to Break Cycle of Criminality. Quindi trasferire i figli delle famiglie della mafia in Italia, fuori dalle regioni dove sono nati, per rompere il ciclo della criminalità. E Luigi Ferrarella ha intervistato questo giudice e dice: finora sono 40 gli allontanati, il giudice che salva i figli dai boss sono le madri a chiedermelo. E poi, divertente questo articolo, credo che tutti noi, che se abbiamo viaggiato Ryanair o EasyJet o su altre compagnie low cost, sappiamo quanto sia problematico il fatto che si può avere solo un bagaglio a mano, che può pesare solo un tot, misurare solo a misure molto strette. Se supera queste misure bisogna imbarcarlo a pagamento. E Michael O'Leary, che è amministratore fondatore, amministratore delegato di Ryanair, che è la più grande low cost d'Europa, ha denunciato quelli che definisce, o meglio, il Corriere li definisce così, in inglese non so come li abbia definiti lui, furbetti del bagaglio a mano. La denuncia di O'Leary, patron di Ryanair: valigie fuori misura, soprattutto in Italia, stretta sulle regole per non decollare tardi, perché naturalmente se si arriva fino al gate, alla porta d'imbarco, con un bagaglio fuori misura, bisogna poi imbarcarlo. Questo fa perdere tempo e, secondo O'Leary, appunto, poi si parte in ritardo. A proposito di compagnie aeree, sul Corriere della Sera, l'ennesimo piano per l'Alitalia. Ci sarebbe in questo piano, perché sapete che all'Italia nemmeno Etihad, la grande compagnia degli Emirati Arabi, è riuscita a salvarla, e adesso siamo di nuovo alle prese con un piano per, si spera veramente, salvarla. Adesso questo piano, quello che trapela, tre tariffe per i biglietti, stretta sui leasing per gli aerei, verso un modello ibrido stile Aer Lingus, low cost ma servizi a pagamento, il progetto al governo entro 10 giorni, gli sprechi nell'assistenza alla clientela, e c'è un confronto con le altre compagnie aeree, in uno schema che vedete a pagina 29 del Corriere della Sera, sconfortante per quanto riguarda la redditività, ma anche il numero di passeggeri e i ricavi. Ci fermiamo però un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Prima di passare ai supplementi della domenica, vi segnalo ancora qualche articolo dalle pagine interne dei giornali, un'intervista di Fabio Martini all'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, a pagina 7 della Stampa, il titolo 6 mesi di nulla, Roma verso l'eutanasia, i partiti lasciano cuocere la Raggi per calcolo. E vi segnalo l'ultima domanda, perché Marino fa per l'ennesima volta un paragone con la sua ex professione di medico, credo che non entri in sala operatoria da almeno 10 anni, però gli piace continuare a usare queste metafore mediche. E il giornalista gli chiede: domani decisiva direzione del PD, che cosa spera? E Marino risponde: vede, quando in sala operatoria c'è un evento avverso, gli specialisti si riuniscono con chi guidava in quel momento l'intervento per capire se e come sia stato commesso un errore, cercando di prevenirne la ripetizione. Il PD non si è mai riunito per capire l'errore, non ha mai chiesto scusa ai familiari, i romani, come se non fosse accaduto nulla. Da Roma in poi sono seguite diverse sconfitte, culminate col referendum. È arrivata l'ora di elaborare quel lutto con analisi e ravvedimenti veri. Quante volte abbiamo sentito questo ragionamento? Vediamo, vedremo appunto domani che cosa succede in questa direzione, PD. Intanto vi segnalo dal Messaggero, poi davvero passiamo ai supplementi domenicali. Sapete che il Messaggero è, sfogliando le pagine della cronaca di Roma, si viene poi veramente a sapere che cosa succede a Roma. Ecco, per esempio, pagina 41, buche, piano a singhiozzo, interventi solo per le urgenze. Le buche sono uno dei tanti problemi. Sapete, vi ricorderete quella scena in cui anche Beppe Grillo è caduto, scivolato in una piccola buca di Roma, poi ha detto: ah sì, devo dirlo io alla Raggi, le deve mettere a posto più in fretta. Ecco, così veniamo a sapere che assegnati solo 4 lotti su 10, manutenzione con i rattoppi, la copertura della città è parziale, il via libera è a macchia di leopardo. Ma veniamo ai supplementi domenicali, cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi. Oggi, se possibile, ancora più toccante del solito, si intitola Millimetri. È una citazione dal libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa, e la citazione è questa: benedetti siano gli istanti e i millimetri e le ombre delle piccole cose. Difficile è sottrarsi al fascino che genera la figura dello scrittore portoghese Fernando Pessoa, e non solo perché è alonato dal mistero dei suoi tanti eteronimi e dal suo enorme patrimonio letterario lasciato inedito in una sorta di arca fino alla morte avvenuta nel 1935, ma anche per l'originalità delle sue riflessioni. Da uno di questi testi, Il libro dell'inquietudine, ho tratto un'intuizione folgorante che spesso è banalmente sintetizzata nello stereotipo piccolo e bello. In realtà, Pessoa vuole ricordarci che ogni goccia di materia e di tempo, ogni evento quotidiano minuscolo, ogni millimetro di spazio, ogni bagliore e ogni ombra contengono un microcosmo che la nostra superficialità ignora, presi come siamo solo da ciò che è clamoroso e appariscente. Leopardi, nel suo Zibaldone, annotava in modo altrettanto fulminante: i fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. E poi in prima pagina anche la consueta rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, intitolata oggi La storia dimenticata e la lezione di vita del grande Natalino. Natalino è Natalino Palermo, che è stato un professore anche di Napoletano, e il suo ricordo è affiancato a quello in realtà di un professore che invece è ancora vivo, Giovanni Codovini, insegnante di storia ma anche autore di molti saggi saggi storici e manuali, e il memorandum è un elogio appunto dei maestri e dei ricordi che lasciano in tutti noi, quindi anche dell'importanza della scuola di cui tanto si parla in questi giorni. L'apertura però vera e propria del domenicale si intitola Lutero in Campo dei Fiori. Prende spunto da un libro, Campo dei Fiori, storia di un monumento maledetto, che ha vinto il premio Viareggio per la saggistica, e il suo autore Massimo Bucciantini racconta come nel 1889 gli studenti romani aggiunsero il padre della riforma protestante tra le effigi sulla statua di Giordano Bruno. E come ogni domenica, da ormai 16 domeniche, le quattro pagine dedicate ai bambini, c'è qualcuno che sa leggere. Il pezzo di copertina oggi è di Franco Lorenzoni, è il sole che fa quel pezzo di luna, e appunto Franco Lorenzoni racconta con un linguaggio comprensibile a tutti, bambini compresi, fasi lunari, fasi facciali, come capire il ciclo del nostro satellite disegnando le ombre. Poi un intervento di Carlo Maria Martini, un testo tratto da Giustizia, Etica e Politica della Città, che è il terzo volume dell'opera omnia di Carlo Maria Martini, edito da Monpiani, che uscirà il 15 febbraio, quando Martini avrebbe compiuto 90 anni. In realtà, come sapete, Carlo Maria Martini è scomparso nel 2012. Il titolo, Com'è bella la città aperta, una profetica riflessione del cardinale sulla metropoli. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo un articolo molto interessante di Gilberto Corbellini e Mario Molinaro, due scienziati e anche divulgatori. L'elisir della longevità. L'articolo prende spunto da un libro di Walter Longo, La dieta della longevità. Tra l'altro, chi qui a Radio 24 segue Essere Benessere, sicuramente ne ha sentito parlare, perché Deborah Rosciani e Nicoletta, Carbone ne hanno parlato spesso. Hanno avuto anche Walter Longo ospite. L'alimentazione vegetale ci può fare invecchiare in salute grazie agli effetti protettivi antinfiammatori e anticancerogeni di cibi come olio d'oliva, broccoli, caffè e uva. Il libro del biochimico Walter Longo, diventato un bestseller, propone ricette verificate scientificamente per uno stile di vita corretto e salutare. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, dedica la copertina a un affida la copertina a un artista. Questa settimana è Luca Coser. E dall'interno vi segnalo un ritratto molto divertente di Massimo Gaggi, del fondatore di Starbucks, che si chiama Howard Schultz. Sapete che è stato all'inizio un sostenitore di Donald Trump, si è poi ricreduto, e adesso alcuni addirittura pensano che potrebbe presto anche lui scoprire le carte sulla sua vocazione politica. Massimo Gaggi scrive: Un caffè per la Casa Bianca ha trasformato le sue caffetterie in uffici di collegamento e luoghi di integrazione, ha assunto veterani, che è una traduzione da veterans, che però noi italiani in italiano dovremmo dire reduci, e promesso di assumere rifugiati proprio mentre Washington alza nuovi muri. Ricordiamo tra l'altro che Starbucks, che è questa catena di bar e riduttivo, perché appunto sono luoghi dove si può anche restare molto tempo, c'è sempre una connessione wifi disponibile, ci sono i giornali, in ogni caso appunto è una catena ormai diffusa negli Stati Uniti e in tantissimi altri paesi, starebbe per sbarcare anche in Italia, che è un po' l'ultimo dei paesi europei dove Starbucks ha avviato un piano di conquista, perché siamo la patria, insomma, dei caffè e dei bar, quindi probabilmente ci hanno ragionato bene. Però, cominciando da Milano, dovrebbe appunto esserci presto il primo Starbucks. La copertina di Robinson è dedicata, si chiama 77, il riferimento è alle proteste del 77, alle quali molti hanno fatto riferimento per queste recenti proteste nelle università, in particolare quelle di Bologna. Ma vi segnalo non tanto questo approfondimento che ho trovato sinceramente un po' stantio, ma invece un articolo di Anna Lombardi, che alla vigilia della mostra di Milano dedicata a Keith Haring, il poeta, l'artista pop, sapete, penso che tutti quando vedono una sua opera la riconoscono, ai genitori, il padre e la madre di Keith Haring, dicono: disegnava sempre fin da bambino, lo faceva persino sui muri di casa, non pensavamo che i suoi lavori fossero arte, non lo capivamo. amo, ma lo abbiamo amato tanto. E appunto questa mostra che apre il 21 febbraio qui a Milano, a Palazzo Reale, è dedicata a Keith Haring. E la serie di interviste straparlando di Antonio Gnoli, con sempre il bel ritratto di Riccardo Mannelli, questa settimana è dedicata a Pier Vincenzo Mengaldo, che ha insegnato storia della lingua italiana all'Università degli Studi di Padova ed è uno dei soci dell'Accademia della Crusca, che parla un po' di tutto, dei narratori italiani, ma anche appunto di questi recenti riaccendersi della discussione su dove va la nostra lingua e se ancora la sappiamo parlare e scrivere. Dal supplemento del Messaggero Macro, invece, una bellissima intervista per me, che sono appassionata di divulgazione scientifica, al premio Nobel per la fisica 2015, che è Takai Kajita, un giapponese, che domani riceverà a Perugia una laurea honoris causa. E assicura, è fiducioso, scopriremo anche la materia oscura, uno dei grandi segreti della fisica. E dal giornale, dalle pagine di cultura del giornale, a proposito di divulgazione scientifica, una bella intervista. Vista Ian Stewart, un matematico inglese, la poesia dei numeri. Grazie alle equazioni abbiamo imparato a volare e non solo. La matematica ha portato alle scoperte più importanti dell'umanità. Era l'ultima segnalazione per oggi. I supplementi domenicali sono ricchissimi, anche i giornali, quindi come sempre ve ne raccomando la lettura, specie appunto di domenica, quando magari abbiamo qualche giorno in più. Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi al 349-238-6666. Ringrazio Filippo Lacorte in regia. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.